TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Al via oggi e fino al 31 marzo la stagione dei saldi invernali con prezzi scontati. Secondo i calcoli di Confcommercio Federmoda Udine, la spesa media si aggirerà sui 300 euro a famiglia a fronte della rivitalizzazione dei centri urbani e dell'aumento del flusso dei visitatori. Lavoro privato in Friuli Venezia Giulia: aumentano gli occupati, 1 su 3 over 50 dal 2018, redditi su del 10%, ma l'inflazione cresce del 17%. Sono i dati emersi da un'indagine dell'IRES su dati IMSS. A Pordenone di scene, teatrini lambe lambe, forma scenica e miniatura diffusa in Sud America, che allestisce piccole scatole da osservare attraverso uno spioncino per uno, al massimo due spettatori alla volta. Calcio: tra poco in Serie A scenderà in campo l'Udinese per la prima gara del 2026. Per i bianconeri di Rugnaic una trasferta sul difficile campo del Como, che punta a qualificarsi in Europa. Nel basket di A2 impegno casalingo per Cividale, che ospiterà Mestre al Palagesteco alle 20. Sci alpino: la travisiana Lara Delamée è ottava, la migliore delle italiane dopo la prima manche del gigante femminile di Coppa del Mondo a Kranjska Gora. Le 12:11, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Berzi e Maria Spezia, in studio a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 3 gennaio, che come avete sentito va in onda prima per dare poi spazio alla radiocronaca della partita di calcio tra Como e Udinese. Subito con le notizie: oggi prendono il via i saldi invernali. Sì, occasione di acquisto a prezzi ribassati e dunque di buoni affari sia per chi vende sia per chi compra, un periodo che i commercianti sperano possa ridare fiato a una stagione invernale che non ha brillato. Le vendite prenatalizie, specie nei negozi più piccoli e nelle zone meno battute delle città, non hanno soddisfatto. Tengono solo le grandi catene, le botteghe storiche, il settore del lusso. A Udine come a Trieste i negozianti segnalano le ottime vendite con la clientela straniera, soprattutto austriaca e slovena e in misura minore tedesca, che riescono a compensare il generale calo di potere d'acquisto degli italiani. E anche le amministrazioni comunali cercano di fare la loro parte per agevolare lo shopping, come a Pordenone, dove oggi la sosta sarà gratuita per tutto il giorno. Ma sentiamo cosa ci ha detto il presidente di Federmoda Friuli Venezia Giulia e vicepresidente vicario Confcommercio Udine, Alessandro Tollon. È stato sicuramente un autunno piuttosto tiepido, sia dal punto di vista meteorologico che anche nelle vendite nei negozi di moda. Oggi iniziano i saldi e l'invito è proprio di approfittare di prezzi scontati per prodotti di qualità. Siamo fiduciosi proprio perché comunque la moda, il capo di abbigliamento, è una coccola che uno fa a se stesso per necessità o per piacere. Con questi sconti, che solitamente vanno dal 20 al 40, anche al 50%, si può portare a casa il capo particolare che si è guardato nelle vetrine, che si è controllato nelle vetrine a un prezzo speciale, oppure semplicemente acquistare quello che serve per la famiglia per finire l'inverno. Confcommercio considera che le famiglie approfitteranno dei saldi, anche perché siamo di fronte a un bel weekend lungo, magari un po' diluito, non ci sarà magari l'inizio col botto, ma speriamo che fino a martedì si lavori bene e poi per due mesi i saldi saranno all'interno dei negozi con l'aggiunta delle prime collezioni estive. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla cronaca. I vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti questa mattina intorno alle 5:30 a Gradisca di Sonzo, in una palazzina in cui era stata segnalata una fuga di gas. Giunti sul posto, i pompieri non hanno rilevato perdite di gas metano GPL, bensì elevate concentrazioni di monossido di carbonio. A scopo precauzionale, i soccorritori hanno disposto l'evacuazione delle 6 persone presenti in uno degli appartamenti, mentre altri 2 alloggi erano vuoti. Gli occupanti sono stati trasportati in ospedale dal personale sanitario, nel frattempo intervenuto per accertamenti. Sono al momento in corso le verifiche per accertare le cause della presenza del gas velenoso. Sul posto intervenuti anche i carabinieri. Si ricorda che il monossido di carbonio è un gas altamente tossico, inodore e incolore, che se inalato in elevate concentrazioni può risultare letale. Il monossido di carbonio si sviluppa in seguito a una combustione incompleta dovuta a carenza di ossigeno. Si raccomanda pertanto di verificare sempre la corretta ventilazione ventilazione degli ambienti in cui sono presenti apparecchi a combustione, quali caldaie, caminetti, braccieri o dispositivi simili. Ancora cronaca, c'è un indagato nella vicenda del quindicenne deceduto alla vigilia di Natale nel corso di una partita di calcetto con gli amici a Pordenone. Si tratta del medico dello sport, un 39enne di Maniago, che aveva rilasciato l'idoneità sportiva al giovane tesserato con una società cittadina, cioè il Torre. Si tratta di un atto dovuto per permettere al professionista di nominare un perito all'autopsia che si svolgerà l'8 gennaio. La procura di Pordenone ha affidato l'incarico dell'esame al medico legale Antonello Cirne e allo specialista in cardiologia Paolo Ius. Nel 2024 l'occupazione dipendente nel settore privato del Friuli Venezia Giulia, esclusi quindi agricoltura e lavoro domestico, è aumentata di circa 5.700 unità rispetto all'anno precedente, confermando una tendenza positiva iniziata nel 2015 e interrotta solo dalla pandemia nel 2020. Nel confronto con il 2018, il numero di lavoratori dipendenti che presentano almeno una giornata retributiva in regione è complessivamente aumentato di quasi 34.000 unità. A renderlo noto con una rielaborazione di dati IMSS è il ricercatore dell'IRES Friuli Venezia Giulia, Alessandro Russo. Sono le 12.16, passiamo al meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, variabile nell'arco montano. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 9 gradi, a Gorizia 9, Udine 8 gradi, Pordenone 4, in area montana Forni di Sopra 1, Piancavallo e Tolmezzo 0 gradi, Tarvisio 1 grado e 5 decimi sotto lo zero, a Sappada sono 8 i gradi negativi, in quota sul monte Zoncolan meno 3, sul monte Lussari meno 4, sulla costa grado 9 gradi, a Lignano 6. E queste le previsioni dell'ARPA per il Friuli Venezia Giulia. Oggi cielo da poco nuvoloso a variabile con possibilità di qualche debole pioggia sparsa sulla costa verso sera. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà vento di Borino. Il gruppo carnico Legnolandia di Forni di Sopra, che realizza opere in legno per grandi giochi e strutture, si è aggiudicato una commessa per la fabbricazione della struttura portante interamente in legno lamellare di pino di un palazzetto dello sport nelle isole Comore, che dovrà essere a basso impatto ambientale. Il valore della commessa è di 1,5 milioni di euro e l'opera sarà realizzata in occasione dei giochi dell'Oceano Indiano che si svolgeranno nel 2027. L'azienda friulana di recente ha realizzato i deflettori della pista di bob per le Olimpiadi di Milano Cortina e ora dovrà costruire la superficie coperta di 3.500 metri quadri utilizzando 540 metri cubi di legno e con una dimensione massima delle travi reticolari portanti di 50 metri. A occuparsi delle due fasi di progettazione e realizzazione lo stabilimento Eurostratex di Sutrio. Particolare curioso, l'opera dovrà prima aver subito un trattamento speciale contro le termiti molto diffusi sull'isola nel dipartimento francese d'oltremare di Majotte. Spostiamoci ora in carne per parlare del cosiddetto progetto Logica. La comunità di montagna della Carnia guida una nuova alleanza transfrontaliera con la Slovenia per affrontare il cambiamento climatico nell'area alpina attraverso il progetto europeo Logica, acronimo che sta per Local Operative Guidelines to Implement Climate Adaptation, finanziato dal programma Interreg via Italia-Slovenia. Avviato nell'ottobre 2025 con un budget complessivo di oltre 860.000 euro, il progetto punta a sviluppare soluzioni concrete, specifiche e replicabili per l'adattamento climatico delle piccole le comunità montane particolarmente esposte ai rischi ambientali. Tra i principali risultati attesi figurano la creazione di un database condiviso di dati climatici, un'accurata analisi delle vulnerabilità territoriali e la definizione di linee guida operative a supporto delle amministrazioni locali. Sono inoltre previste azioni pilota nei comuni di Tolmezzo e di Irska Bistrica, con l'obiettivo di passare da una gestione emergenziale degli eventi estremi a una strategia di prevenzione strutturata e sviluppo sostenibile. Il progetto promuove anche il rafforzamento delle competenze tecniche degli enti locali e la cooperazione stabile tra territori alpini con caratteristiche simili. In questo contesto la comunità di montagna ha pubblicato una manifestazione di interesse per servizi di supporto amministrativo, comunicazione, traduzione e interpretariato con scadenza 12 gennaio. Nella stessa giornata, alle 17, si terrà un incontro pubblico di presentazione del progetto a Tolmezzo, aperto a cittadini, amministratori e stakeholder. Il partenariato coinvolge anche la comunità di montagna del Natisone, del Torre, il comune di Tolmezzo e realtà slovene, con la regione Friuli Venezia Giulia nel ruolo di partner associato, a conferma della rilevanza strategica dell'iniziativa per l'intero territorio transfrontaliero. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Cambiamo argomento. I teatrini Lambe Lambe, forma scenica in miniatura diffusa in Sud America, che allestisce piccole scatole da osservare attraverso uno spioncino per uno al massimo due spettatori alla volta, esordiranno a Pordenone all'ex convento di San Francesco alle 16:30. Ogni spettacolo ha una durata di circa 5 minuti. Sentiamo allora l'intervista ad Alessandro Guglielmi della compagnia Mani in Tasca. Cos'è il teatro in miniatura? Il teatro in miniatura è un teatro segreto, è un teatro intimo, è un teatro di relazione in cui io, marionettista, eseguo all'interno di una scatola uno spettacolo per un solo spettatore alla volta e ogni spettacolo è unico come la persona che mi trovo davanti. E che storie raccontano il vostro teatro in miniatura? Essendo un teatro così intimo, spesso sono storie che nascono dal proprio vissuto personale. Nel mio caso, la mia opera si intitola Starboy, ruota attorno ai desideri e alle stelle cadenti e racconta di un abbandono che fa parte della mia storia personale che metto in scena all'interno della mia scatola. E perché un teatro che parla solo a uno spettatore alla volta, a due spettatori? Perché il teatro è relazione. Come burattinaio sono abituato a fare spettacoli con 100, 200, 500 persone. Questa forma di teatro va a cercare la radice, l'essenza della relazione nel teatro tra attore, performer e spettatore. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport iniziando dal calcio. Tra poco in Serie A scenderà in campo l'Udinese per la prima partita del 2026 per i bianconeri di Reuniaj, una trasferta sul difficile campo del Como che punta a qualificarsi in Europa. Nel basket di A2, impegno casalingo per Cividale che ospiterà questa sera Mestre al Palagesteco alle 20. Ancora basket, domani per la Serie A Trieste sarà in trasferta a Trento per cercare la vittoria che garantisca l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia, mentre la Pudine sarà di scena a Milano. Sci alpino, la trevisiana Lara Della Mea è ottava, la migliore delle italiane, dopo la prima manche del gigante femminile nella prova di Coppa del Mondo che si sta svolgendo a Kranjska Gora in Slovenia. La triestina Sinigoi, con un ritardo di quasi 2 secondi, non si è qualificata per la seconda manche che partirà alle 13. Cambiamo pagina, domani sulla terza televisione, sul terzo canale televisivo Rai a diffusione nazionale alle 11:05 andrà in onda la rubrica Est-Ovest e la stessa puntata sarà trasmessa anche sul primo canale radiofonico Rai alle 6:05 di mattina e con anticipazione degli argomenti che saranno trattati. A Salonicco sono concentrate alcune delle eccellenze scientifiche elleniche, base per lo sviluppo tecnologico della Grecia. La termocentrale di Plievlia, strategica per il sistema energetico in Montenegro, garantisce lavoro ma avvelena l'ambiente. Prijedor, teatro di una violenta pulizia etnica durante la guerra in Bosnia, non riesce a fare i conti con le tragedie del passato. La Croazia, tappa della rotta balcanica, non è in grado ancora di affrontare in modo dignitoso la questione dell'ospitalità dei migranti. Boban Pesov, nella graphic novel C'era una volta l'Est, racconta l'emigrazione della propria famiglia dalla Macedonia in Piemonte. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11:05 minuti su Rai 3. E sempre domani, ma su queste frequenze, andrà in onda la tradizionale rubrica della domenica Vita nei Campi. Questo è il contenuto della puntata. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani, per la prima puntata del nuovo anno, propone i peperoncini piccanti made in Friuli, coltivati e trasformati a Gemona da una giovane azienda agricola. Per la storia del cibo, una leggenda carnica che racconta di charsons e folletti di montagna. Il dilemma del grano da pane in Friuli riparte dalle novità normative sui MEB, materiale eterogeneo biologico. Tè aromatizzati, anzi adulterati, ingredienti fantasiosi e manipolazioni tra Cina e Europa. Il ruolo dell'autolisi dei lieviti delle fecce fini nella conservazione del vino. La presenza umana nel parco delle Prealpi Giulie, popolazione, usanze, lingua. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano della settimana. settimana. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. L'attore, regista e musicista Neri Marco Re sarà protagonista dello spettacolo Sherlock Holmes, il musical, che allestisce in scena un'epica avventura ambientata nella Londra di fine Ottocento. Sul palco una vicenda di omicidio a cui segue la minaccia di un attentato che potrebbe causare centinaia di vittime, tra cui la regina Vittoria. 20 personaggi in azione con Marco Re che daranno vita a un musical ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi, con la regia di Andrea Cecchi e le musiche di Andrea Sardi, a Trieste al Politeama Rossetti alle 20:30. Finale di stagione per la rassegna Note del Timavo, Tango da pensare, che propone lo spettacolo Confini sfumati tra timbri e figure, e l'ensemble Lunfardo a Gorizia al Centro Culturale Bratus alle 20:30. L'usive la luna è l'appuntamento con i suoni e i colori della tradizione musicale carnica legata al Natale a Paderno all'ex cinema alle 20:45. E alle 12:25 termina qui questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, andata in onda in anticipo per dare spazio alla radiocronaca tra Como e Udinese, in onda subito dopo la sigla. Collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Carlo Morello, ha collaborato in redazione Isabella Parutto. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.